personaggi letterari del Falco e il Gabbiano di Enrico Ruggeri. Per raccontare questa storia d'amore, di gelosia, questa storia a tinte veramente forti, dobbiamo partire da una battaglia. La battaglia è considerata l'evento più importante della epopea napoleonica, la battaglia di Marengo. È il 14 giugno 1800, siamo a est del fiume Bormida, nella odierna provincia di Alessandria. È una battaglia famosissima che vede schierato da un lato l'esercito austriaco, dall'altro l'esercito dell'allora primo console Napoleone Bonaparte. Il combattimento è straordinario, in un primo tempo viene attaccato a sorpresa dagli austriaci e Napoleone sembra sconfitto, poi cambia le sorti con il classico colpo d'ala da maestro e sbaraglia il nemico. Napoleone Bonaparte non può immaginare che le sorti di quella battaglia, così importanti per lui, sono decisive anche nella vicenda di una donna che di Bonaparte ha solo sentito parlare, non c'è un nesso tra i due, eppure il nesso arriva, perché questa donna vedrà la sua vita travolta dalla tragedia. Questa donna è la nostra protagonista di oggi, la bellissima e appassionata Floria Tosca, una cantante nota nella Roma papalina, attorniata da mille ammiratori e anche insistenti, diciamo quelli che oggi definiremo degli stalker. Eh sì, perché lei non è solo bella, è anche in vista, calca le scene, poi è volitiva, è passionale, è libera e non nasconde il suo amore, l'amore con un giovane pittore, il suo amante Mario Cavaradossi, e lei non fa mistero di avere questo grande amore, è presa da un sentimento travolgente che nutre per lui, non si cura di mantenere le apparenze che la vorrebbero magari un po' più riservata, lei vive alla luce del sole ed è un amore che le procura anche una grande gelosia, qualsiasi donna si avvicini a Mario per lei è una nemica giurata, sospetta perfino delle donne ritratte nelle sue tele, insomma la gelosia che secondo me insomma, è uno dei difetti peggiori dell'essere umano e qui la farà da padrona, anche è una gelosia senza senso perché Cavaradossi in realtà non ha occhi che per lei, per la bellissima Tosca. Mario Cavaradossi è un artista noto a Roma, gli vengono affidati soggetti sacri. In quel momento, per esempio, sta dipingendo una tela all'interno della Basilica di Sant'Andrea della Valle. Mentre è intento al suo lavoro, scopre che nella Basilica si è nascosto un bonapartista, si chiama Cesare Angelotti, appena scappato dalle prigioni di Castel Sant'Angelo. E Cavaradossi parteggia per Napoleone e decide di aiutarlo. Angelotti è fratello della Marchesa Giulia Attavanti, che possiede nella basilica una cappella di famiglia e la marchesa lì ha nascosto dei suoi abiti affinché Angelotti, il fratello, potesse travestirsi da donna e fuggire da Roma. In quel momento arriva Tosca e il pittore preferisce non coinvolgerla e quindi fa nascondere Angelotti e lei naturalmente, siccome l'ha sentito parlare con qualcuno, crede che il suo amante sia in compagnia di un'altra donna, gli fa una scenata. Alla fine Cavaradossi la convince che ama solo lei e così Tosca, che quella sera deve cantare davanti ai reali a Palazzo Farnese per una festa in onore della vittoria degli austriaci su Napoleone, gli propone di incontrarsi dopo lo spettacolo per passare insieme una notte d'amore. Thank you. mia sirena verrà. Mario Cavaradossi non sa resistere all'invito della sua amante, poi però la manda via con la scusa di dover lavorare. In realtà lui deve risolvere questa questione, la questione di Angelotti. Lo richiama dal suo nascondiglio e inizia a organizzare la sua fuga da Roma. Però i due vengono interrotti da un suono sinistro, un suono che non annuncia niente di buono. Sono i colpi di cannone che annunciano la fuga del detenuto da Castel Sant'Angelo. Insomma, Mario Cavaradossi e il fuggitivo Cesare Angelotti sentono questo cannone dall'interno della basilica. Questo significa che Angelotti è braccato, significa che le truppe papaline verranno sguinzagliate in giro per Roma alla ricerca dell'evaso. Cavaradossi non se la sente di abbandonare Angelotti al suo destino, lo nasconde nella sua villa in periferia. I due scappano portando con sé il travestimento femminile che gli ha lasciato la marchesa e nella fretta dimenticano il suo ventaglio, una circostanza che si rivelerà gravissima. Eh sì, perché nella chiesa fa irruzione il cattivo, un barone, si chiama il barone Scarpia, è il capo della polizia papalina. Scarpia è astuto e ha fatto il ragionamento giusto. Qualcuno ha organizzato la fuga di Angelotti e quel qualcuno non può che essere la sorella. Quindi la cappella di famiglia, che è un rifugio sicuro. I colpi di cannone lui non li aveva ordinati, voleva cogliere di sorpresa l'evaso e invece partono questi colpi che mettono il delinquente in fuga. E Scarpia sospetta subito di Cavaradossi perché sa che è un buonapartista e capisce che il pittore ha aiutato il fuggiasco, ma non sa dove si sono nascosti. E Scarpia però ha due fortune: la prima è il ritrovamento del ventaglio con lo stemma dell'attavanti e la seconda è l'arrivo di Tosca, perché c'è un altro aspetto la vicenda. Scarpia è innamorato di Tosca. Tosca è tornata da sua amante per dirgli che la serata è sfumata perché le notizie che arrivano da Marengo danno Napoleone sconfitto, quindi si prevede che i festeggiamenti saranno più imponenti e che dureranno tutta la notte. Il perfido Scarpia cosa fa? Mostra a Tosca il ventaglio della marchesa per suscitare la sua gelosia. Tosca abbocca e quando corre via dalla chiesa lui la fa seguire perché è sicuro che Tosca correrà nel nascondiglio di Cavaradossi per fargli una scenata o magari addirittura per sorprenderlo con la sua rivale. Il barone Scarpia sta pregustando una duplice vittoria: uccidere Cavaradossi e rubargli la donna. E ce n'è di gente come Scarpia ancora al giorno d'oggi. E gli eventi stanno prendendo il corso che lui aveva previsto, cioè Tosca corre alla villa come una furia e va dal pittore, che è costretto a raccontarle la verità per evitare di far arrabbiare la gelosa Tosca. All'arrivo della polizia Angelotti si nasconde nel pozzo, l'unico che viene arrestato è Cavaradossi. E così, quella stessa sera, mentre si sta svolgendo la grande festa con il re, con la regina, che stanno celebrando la presunta vittoria su Napoleone a Marengo, negli uffici di Scarpia si sta celebrando un altro successo, l'arresto di Cavaradossi. E non ci sono prove contro di lui perché Angelotti non è stato trovato, ma Scarpia non è certo il tipo che si fa fermare di fronte alla legge. Lui è proprio il vero e proprio poliziotto cattivo, la legge la fa lui. E così Cavaradossi viene torturato brutalmente, non rivela il nascondiglio di Angelotti. E Scarpia capisce che gli ideali di libertà sono molto forti, capisce che Cavaradossi è disposto anche a farsi uccidere pur di non parlare, ma il capo della polizia, lo scaltro Scarpia, ha un altro metodo per farlo parlare ed è un metodo infallibile, e quel metodo si chiama Floria Tosca. Ella verrà per amor del suo Mario. Per amor del suo Mario al piacer mio s'arrenderà. Tal dei profondi amori è la profonda miseria. Ha più forte sapore la conquista violenta che il mellifluo consenso. Io di sospiri e di latiginose albe lunari poco m'appago. Non so trarre accordi di chitarra, né oroscopo di fiori, né farlocchio di pesci o tubar come tortora. Io bramo. La cosa bramata perseguo, me ne sazio e poi la getto, volto a una nuova esca. Dio creò diverse beltà e vini diversi. Io voglio gustar quanto più posso dell'opera divina. Scarpia è uno assetato di vita, desidera Tosca con tutte le sue forze, lo sa che lei lo odia, ma proprio forse proprio per quello la desidera tanto, quindi convoca la donna alla fine del concerto e le fa sentire le grida strazianti del suo amante torturato. E Tosca non ce la fa, cede di fronte a quella barbarie e rivela il nascondiglio di Angelotti. Il fuggitivo è nascosto nel pozzo della villa di Cavaradossi. Il momento è terribile, è drammatico, perché Tosca è in pratica, per salvare il suo uomo, lo tradisce e, rivelando il nascondiglio di Angelotti, condanna anche lui a morte in quanto complice. Tutto sembra perduto, l'unico vincitore di questa storia sembra Scarpia. Ma ecco che arriva la notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato. Napoleone Bonaparte ha ribaltato le sorti della battaglia di Marengo, ha vinto ai supplementari grazie ai reparti di rinforzo del generale Desé. Una sconfitta che era ormai certa si trasforma nella più grande delle vittorie, un successo destinato a cambiare la storia. E Mario Cavaradossi, anche se è torturato, sanguinante, anche se è incatenato, esulta alla vittoria della libertà dal giogo della tirannide austriaca, che non pensa di avere di fronte il capo della polizia del Papa, alleato degli austriaci, l'uomo più potente di Roma. Inneggia la vittoria e sbeffeggia il carnefice Scarpia, che si indispettisce e lo condanna subito a morte. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano. La nostra protagonista di oggi è Floria Tosca, la bella e famosa cantante che vive nella Roma dell'Ottocento, all'epoca del fallimento della Repubblica Romana, dello scontro sanguinoso tra i sostenitori del Papa, che è alleato degli austriaci, e i ben più laici seguaci di Napoleone. Tosca è una donna volitiva, è passionale, è libera, è spregiudicata, purtroppo è anche molto gelosa, e sarà la sua gelosia il suo più grande nemico. Sta vivendo la sua storia d'amore con il pittore Mario Cavaradossi, che è un bonapartista accanito. Il pittore ha nascosto il patriota Angelotti, fuggito dalle carceri del Papa. Insomma, Tosca si trova, senza volerlo, al centro di un dramma storico-politico che si trasforma però nel dramma d'amore per lei, perché sulle tracce del fuggiasco c'è il barone Scarpia, il crudele capo della polizia pontificia, che è invaghito di Tosca, e Scarpia approfitta della situazione per cercare di avere la donna per sé. Insomma, una vicenda che si sta tingendo dei colori del sangue e della passione in un finale degno di una tragedia greca. E qui siamo arrivati a uno dei momenti più terribili. Scarpia ha condannato a morte Mario Cavaradossi per alto tradimento, lo fa condurre in carcere, in attesa del patibolo verrà impiccato all'alba. Tosca, disperata, si getta ai piedi di Scarpia, gli chiede la grazia per il suo amante, e il barone le fa capire che una possibilità di salvezza c'è, che lui vuole qualcosa in cambio. Tosca non capisce, lui le dice: troviamo insieme un modo per salvarlo, e Tosca pensa che lui voglia dei soldi e gli chiede quanto, ma Scarpia non vuole i soldi, vuole ben altro. E insomma, Scarpia dice: a donna bella io non mi vendo a prezzo di moneta. Lui vuole Tosca, sta approfittando, insomma una merda d'uomo, diciamo la verità, approfitta della sua posizione di capo della polizia, e Tosca è inorridita, non può accettare un patto del genere. L'orribile mercato lo chiama e pensa di andare a supplicare la grazia alla regina, ma Scarpia, l'avete sentito, le dice: sarebbe fallace speranza, la regina farebbe grazia a un cadavere, cioè non faresti in tempo. Insomma, non c'è niente da fare, Scarpia è potente, ha in mano la vita dell'uomo che Tosca ama. Tosca deve fare i conti con questo, e l'uomo le propone questo patto, le offre una vita, la vita del suo amante, in cambio del suo corpo. In quel momento bussano alla porta, è un uomo di Scarpia che gli comunica che Angelotti si è suicidato pur di non farsi catturare. In lontananza c'è un rullo di tamburi, la scorta che sta accompagnando i prigionieri al patibolo. Non c'è più tempo, Tosca deve decidersi, deve scegliere se sacrificare la vita del suo amante oppure sacrificare il suo corpo per salvare lui, e tutto questo le fa orrore. Scarpia le fa ribrezzo ancora di più in quel momento, è qualcosa di inconcepibile, ma è troppo innamorata di Mario, vuole salvarlo a tutti i costi, e così tremata di fronte a uno Scarpia irremovibile, Tosca è costretta a cedere e a concedersi a lui, purché Mario abbia salva la vita. Prima, al culmine della disperazione, eleva un rimprovero a Dio, si lamenta con la sorte crudele che gli impone di pagare questo tributo così alto. E lei, proprio a lei, che è una donna devota all'arte, all'amore. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano. Il barone Scarpia, il crudele capo della polizia pontificia, non ha pietà di Tosca e solo quando la donna accetta di concedersi a lui, lui convoca il suo capitano, il capitano Spoletta, e cambia la condanna all'impiccagione e la cambia in una fucilazione. Scarpia deve salvare la faccia, non può mettere a repentaglio la sua carriera, la sua fedeltà al Papa, quindi organizza una fucilazione dicendo a Tosca di stare tranquilla. Eh sì, perché il condannato dovrà solo simulare di cadere sotto i colpi, perché in realtà i colpi saranno caricati a salve, cioè i fucili saranno caricati a salve. Poi scrive un salvacondotto che permetterà agli amanti di raggiungere Civitavecchia e di fuggire dallo Stato Pontificio. A questo punto si dirige verso Tosca per riscuotere quanto pattuito. Le si avvicina dicendole: finalmente sei mia. Però la donna si gira, gli pianta nel cuore un coltello che ha trovato sul tavolo e lo uccide. Muori, dannato, muori. Ti soffoca il sangue. È ucciso da una donna. Mai assai torturata. Odi tu ancora. Parla, guardami. Son Tosca o Scarpia, e avanti a lui tremava tutta Roma. Eh sì, Scarpia, se Dio vuole, è morto. Tosca ha le mani intrise del suo sangue, è sconvolta, sa che non c'è tempo da perdere perché deve avvertire Mario dell'esecuzione simulata, gli deve spiegare che i fucili saranno caricati a salve, che lui dovrà cadere al primo colpo restando immobile fino a quando il plotone non se ne sarà andato. Cavaradossi intanto è sui bastioni di Castel Sant'Angelo, è convinto di dover morire, è disperato all'idea di lasciare per sempre la sua amata Tosca. La disperazione di Mario è interrotta dall'arrivo di Tosca. La donna gli racconta della falsa fucilazione, gli mostra il salvacondotto firmato da Scarpia. E lui si domanda: ma perché il capo della polizia ha cambiato idea? E lei gli racconta il delitto. Mario fa fatica a credere che una donna come Tosca abbia potuto uccidere una come lei, devota, fragile, dalle mani delicate, mansuete pure, le definisce, mani adatte a carezzare bambini, non certo a macchiarsi di sangue. Ma quando una donna si arrabbia, cambia tutto. Cavaradossi è sconvolto, si rende conto che Tosca ha fatto tutto questo per lui, ma non c'è più tempo, il plotone di esecuzione è pronto. Tosca spiega a Mario come dovrà fare, come dovrà fingere cadere sotto i colpi a salve. Tutto si svolge come stabilito. Quando i soldati lasciano i bastioni di Castel Sant'Angelo, Tosca esorta il suo amante a alzarsi per fuggire con lei. Ma lui non si muove perché è stato ucciso veramente, perché Scarpia ha fatto il doppio gioco e riesce a farle del male anche da morto. Ha detto in un secondo momento di caricare i fucili e invece con pallottole vere. Tosca è al culmine della disperazione, si sentono delle grida, è stato trovato anche il cadavere di Scarpia, è inseguita dagli sbirri. La donna disperata si getta dagli spalti del castello suicidandosi. Si chiude questo saggio sulla cattiveria, sulla perfidia dell'uomo e sui grandi amori che possono essere un colpo d'ala e lasciare un segno. In questo caso lasciano un segno nella storia, ma non sono amori, come dire, portati a compimento. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, oppure scrivete al nostro sito, oppure venite a cercarmi nei miei e nei nostri social. L'ora è fuggita, a domani. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Simona Capodanno.